later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce, quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli la produzione non accenna a diminuire, K e Drago si attaccano alla radio. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Murat al-Dakhari ha chiuso i rubinetti del metanodotto che fornisce la Russia. Il motivo è che ci sono dei lavori di manutenzione da fare, ma i russi non sono d'accordo e sono pronti a invadere Turkmenistan occidentale, già in guerra contro Turkmenistan orientale. La missione russa, battezzata Il metano ti taglia una mano, doveva restare segreta fino alla data dell'invasione. Ma le prodezze notturne di un generale dell'Armata Rossa in un'oscura casa di appuntamenti di Vladivostok hanno reso vano ogni tentativo dei servizi segreti di far rientrare la notizia. L'invasione è prevista per domani a mezzanotte. E ora, 2 ore di musica classica Turkmenistan. I russi hanno perso la guerra fredda per un solo motivo, Drago: la vodka. Eh sì, la vodka. Ma certo, la vodka. La vodka ha stroncato una nazione che era andata nello spazio prima dell'America. Solo la vodka. Sì, vabbè, ma la guerra fredda l'hanno persa perché il sistema economico che avevano creato era un fallimento. Anche senza vodka avrebbero perso lo stesso. Vabbè, dai. Sarà anche vero, ma la vodka ha influenzato tutto in Russia, fin dai tempi dello zar. E continua anche oggi a influenzare tutto quel che riguarda la nazione. Vabbè, ma Putin ti sembra uno che beve vodka? No, appunto per quello è un problema. Ma sì, l'unico lucido in tutta la Russia è Putin, pensa che culo. Forse sarebbe meglio fosse anche lui un po' alcolista. Come Yeltsin o come Churchill. Cosa c'entra Churchill? Anche lui. Ma cosa fai con la mano? Che gesto è? Il gesto della bottiglia che... Churchill. Che uno che... Ma che tristezza, il pollice e il mignolo, sì. Ma dai. Churchill era spesso ubriaco. Drago, dai, parlavamo di vodka e di Russia, non di scotch, whisky e impero britannico. Quindi... Secondo me anche Saragat. Ma cosa fai, Drago? Di nuovo il gesto. Saragat, dai. Quando era presidente della Repubblica faceva il discorso di fine anno e intervallava quella specie di borbottio sardo-piemontese a rigurgiti di vino bianco del mattino. Perché quello del pomeriggio doveva ancora digerirlo e quello della sera l'avrebbe bevuto finito il discorso di Capodanno. Quindi Saragat aveva il vizio della bottiglia. Sì, ma non fare il gesto, poi con i russi non c'entra niente, Drago. Sai, secondo me anche Heisenberg, sai quello della Banca d'Europa? Ma sì, ma basta, ma povero Heisenberg, è morto da poco, Drago, te la prendi solo coi morti. Dillo di qualcuno che è vivo della bottiglia. No, no, perché poi mi querelano e non voglio fare gossip. Ma sì, ma siamo io e te in una fabbrica di polli, dai. Non ci sono certo le condizioni per fare gossip. A me però non mi viene in mente nessuno, fammi pensare. Non so, forse Enzo Iannacci? Forse. 1787 und es ist Nacht. Ich habe kein Geld und fühle mich schwach. Zum Glück haben sie mir eine neue Komposition aufgetragen. Ich komponiere sie heute Nacht und morgen früh ist erledigt. Die 4 Sätze der kleinen Nachtmusik entsprechen den 4 Sätzen der klassischen Symphonie. Ah, das ist gut. Die 4 Sätze der kleinen Nachtmusik entsprechen den 4 Sätzen der klassischen Symphonie. Ach du Scheiße, andere Melodie. Und die Matratze. Ist das Beste, was es gibt. klebt. Ja, das ist gut. Fertig. La fabbrica di polli. Il sindacato dei piccioni pensionati ha saputo che il malcontento Sciscia c'ha le file dei polli da macello e Paffino c'ha quelle delle galline ovaiole. A parte il fatto che le galline stessero zitte perché il loro compito è quello di fare le uova e quindi sono pregate di non rompere le scatole ai piccioni che non sono fatti loro. A parte quello, noi rispondiamo a tutti dicendo che magari avete pure ragione, magari noi abbiamo torto marcio, ma non so che farci. Noi ci siamo, siamo in danni. Qualcosa succede sempre che alla fine ci fa sopravvivere e quindi che vi piaccia o no, noi restiamo qui ad aspettare. Grazie per l'attenzione, passo e chiudo. Mi sta venendo fame, ma mangio. Ma sì, mangio. Uè, ma lo sentite quel buffone lì, eh? Sì, sì. Sì, lo so, per lo sbattimento. Lo so che per te è una sofferenza sentir dire certe cose dette da un piccione, poi deve essere veramente uno strazio. Appunto, non so neanche cosa mi trattiene dell'andare lì e prenderlo beccate. Lo so io che cos'è che ti trattiene. E cosa? Il becco del piccione, cosa? Anzi, il becco dei piccioni. I becchi dei piccioni. Questi cazzi di piccione. No, vabbè, dai, pollo. Basta con le parolacce. Ma com'è, questi cazzi di piccione o questi cazzi di piccioni? Ma cosa sta dicendo, oltretutto? Ma quali parolacce, scusa? Parolacce. Questo è il titolo di una composizione di Frank Zappa, eh? Questi cazzi di piccione. Ah, singolare, piccione. Sì, sì, è così. Vabbè, sarà anche il titolo di una composizione di Zappa, Pollo, però non sta bene lo stesso, insomma. Bisogna stare attenti a non creare malcontento, a non creare litigi, baruffe. Quindi modera il linguaggio, lamentati, ma stai tranquillo. E allora cosa volete fare? Anche Zappa odiava i piccioni, eh? Vabbè. Allora ho deciso di dedicare a loro la canzone col titolo italiano Questi cazzi di piccione. Però lui voleva dire questi cazzo di piccioni, solo che gliel'hanno tradotto male, eh? Capito, sì. Guardate che potete controllare, eh? È tutto vero. L'album è degli Yellow Shark del 94, eh? Va bene, sì. Comunque in fondo è vero. Ho un po' paura del becco dei piccioni. Vedi allora che è così? Sì, Zappa e tutto quanto. Beh, per forza. Io qui sono abituato a vivere di prepotenza grazie al fatto che io il becco ce l'ho e gli altri no. Che ce l'hanno più allato. Quindi adesso questo arrivo in massa di piccioni, insomma, mi ha messo un po' in crisi, Forte con i deboli e debole con i forti. Perché voi no? C'è qualcosa di strano in questo, eh? Pollo, fai un po' tu. Ma scusa, come fai a fare il forte con i forti, eh? Se sono forti, sono forti, Vabbè, io fin lì posso capirti, Però scusa, quando arriviamo ai deboli, i deboli lasciali stare, no? Con i deboli nessuna pietà. Scusa, se io mi trovo uno senza becco, senza un'ala, malandato, macilento, io gli do una beccata, è semplice. Però, se trovo uno col becco più grande del mio, cerco di non prendermi una beccata e se non me la prendo, sono più contento, Ma questa è una perfetta filosofia di vita. Complimenti. Davvero. Perché tu sei diverso. Tu credi di essere diverso. Ma voi siete due ciula. Siete due ciula, grandi e grossi, e non capite un tubo. E pensate di essere diversi da me? A me questa cosa mi fa impazzire. Voi pensate che io sia un essere disgustoso, paraculo e voltagabbana, vero? No, assolutamente, sei una persona tutta Ma io sono uguale a voi. Se io non fossi uguale a voi, a quest'ora mi avreste già mangiato, no? Polo, io non mi permetterei mai di mangiare un ex negoziante di dischi esperto di crowd rock. Questo per me è un principio inviolabile. Schwingungen, insomma. Schwingungen, È un bel disco, Adesso, ve lo accenno, perché c'è anche il coro, Che cosa succederà adesso? Chi vincerà nell'eterna lotta tra i forti e i deboli? Non perdetevi l'occasione di scoprirlo domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo mitologico allestimento de... La fabbrica di polli. La fabbrica di polli produce, non chiude, la fabbrica di polli produce, non nuoce quasi mai. Good night, ladies and gentlemen. Good night. Bar.